Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro appuntamento settimanale con i periodici in circolazione, con i periodici in edicola. Si parla molto di tecnologia, se ne parla, diciamo, in toni anche diversi, talvolta più ottimisti, talvolta più pessimisti. Cominciamo da quello che sembra diventato il fenomeno del momento, cioè Facebook. Di Facebook abbiamo visto diversi servizi nelle ultime settimane. Vi segnalo una cosa curiosa che compare sul venerdì. Non so quanti di voi lo sapessero, ma Facebook è anche uno strumento utile per il cardinale di Napoli, nel senso che si chiedono un po' ironicamente, si chiede Silvia Santarelli sul venerdì. Il prossimo conclave si svolgerà su Facebook e vincerà il cardinale che ha più amici. Come sapete, Facebook ha questa terminologia del amico per indicare le persone che sono in contatto tra loro, che ha più amici sul celebre sito di social networking oppure quello con il maggior numero di pagine a cura dei propri fan. Perché queste domande? Perché, come spiega la Santarelli, la battaglia per la conquista dei fedeli sta pian piano traslocando dalle parrocchie alle piazze virtuali. Il cardinale Crescenzio Sepe ha fatto scuola, l'arcivescovo di Napoli ha registrato il suo profilo su Facebook e in poche settimane ha raccolto intorno a sé più di 5.000 fedeli. Ma su Facebook non c'è solo lui, i cardinali fanno proseliti e i loro estimatori si dividono addirittura in gruppi. E spiega poi come ci siano diversi schieramenti anche di fedeli che si confrontano su Facebook, essendo appunto un social networking, cioè una rete, una comunità di individui legati da Facebook, si trovano poi anche i sostenitori dell'una o dell'altra parte. Ma tutta questo sviluppo della tecnologia ha anche dei lati più imbarazzanti. Ad esempio, Panorama ci riferisce di un'inchiesta, lo dicono Klaus Davi e Karen Rubin, un'inchiesta molto semplice: hanno mandato una mail a ognuno dei senatori e dei deputati della Repubblica e in questa mail una finta signora cercava lavoro e voleva vedere quante sarebbero state le risposte degli onorevoli. Sono state molto poche: su 954 destinatari solo 26 hanno scritto, quindi non hanno neppure aperto le mail. In realtà poter gestire le mail credo sia un problema di molti di noi. È molto difficile riuscire a rispondere, a tenere un contatto costante con chi scrive una mail, ma anche il silenzio tecnologico in qualche modo è fastidioso. Infatti, come avvertono Davi e la Rubin su Panorama, secondo l'ex presidente della Camera Fausto Bertinotti non è un obbligo morale, ma per un politico rispondere alle mail, così come più in generale a ogni forma di corrispondenza, rappresenta un dovere deontologico. A ogni domanda che gli viene dai cittadini e che gli è indirizzata ha il dovere di rispondere. La politica, la buona politica, è fondata sul consenso e il dialogo rappresenta uno dei cardini del consenso. Tra l'altro, in questo test è stato scoperto che il 42% dei senatori aveva la casella di posta piena, quindi non poteva ricevere nuovi messaggi. Molti di loro, cosa più sorprendente, i loro staff, trascurano quindi di svuotare le caselle o comunque di monitorarle. Le email, perciò, concludono Davi e la Rubin, non vengono lette abitualmente o non vengono proprio prese in considerazione. Questo, in linea generale, diciamo, non è bellissimo come immagine, al di là poi dei contenuti che si possono dare alle risposte di mail, una cosa automatica o più o meno personalizzata. Dalle mail e da Facebook andiamo alla domanda allora fondamentale che traiamo dall'Espresso, domanda fondamentale e conclusiva per quest'oggi. Ce la pone l'Espresso e ci chiede: più felici con l'high tech? Decine di ricerche lo hanno provato. I gadget elettronici danno una breve euforia, ma che si trasforma presto in frustrazione. Eppure lo sviluppo digitale può davvero migliorare la vita. Ecco dove e come, lo spiega Daniela Condorelli sull'Espresso di questa settimana. Tra l'altro, in questo articolo della Condorelli si racconta anche che uno stesso paese, la Danimarca, è al top delle classifiche mondiali per felicità e per diffusione delle tecnologie. i due dati vengono affiancati dalla Condorelli, che si chiede se l'una cosa richiami l'altra. Felicissimi e ipertecnologizzati i danesi, secondo il World Values Survey, che classifica i paesi in cui si è più felici, e il Global Information Technology Report, che misura l'influenza dell'information technology in una nazione. Ma davvero tecnologia fa rima con felicità? E qui la Condorelli spiega: non è esattamente così. Un conto è avere l'ultimo gadget elettronico, l'ultimo ritrovato elettronico, e altro poi è la complessiva felicità. Allora, abbiamo parlato dei danesi. E c'è un'azienda danese che è molto famosa nel mondo, la Lego. Costruisce questi mattoncini con cui molti di noi, forse tutti, abbiamo giocato da bambini. La Lego è un'azienda che, come riferisce ancora l'Espresso, è stata in un periodo molto buio, ma ora pare avviata a risollevarsi in modo deciso, anzi si sta già risollevando in modo deciso. Nel 2001 stava in una pesante crisi che ne minacciava la sopravvivenza, ma non solo oggi è risanata, riferisce Antonio Marini sull'Espresso, ma il suo amministratore delegato, promosso al timone nel 2004, scommette su un decennio di costante crescita. Di questi tempi davvero non facili per l'industria dei consumi è un dato non consueto. Si spiega poi nell'articolo che le vendite del primo semestre 2008 dei mattoncini danesi sono aumentate del 20% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, registrando un utile prima delle tasse di 76 milioni di euro, erano 28 nello stesso periodo del 2007. Allora, per un'azienda che in qualche modo si risolleva, ci sono però anche riferimenti naturalmente alla crisi finanziaria e ai suoi riflessi industriali che stanno costringendo un po' tutti noi. Sui settimanali e sui mensili infatti si moltiplicano le indicazioni di una vita, di un consumo, di uno stile di vita, di uno stile di consumo più ecologico o pauperista. I due termini, qualche volta, a giudicare dagli articoli, sembrano un po' sinonimi. Cominciamo da una cosa che sta sull'Economist, molto carina a mio giudizio. Riferisce della politica britannica in materia di ecologia, quindi grandi scelte di politica economica, e naturalmente il tema è come uscire dalla crisi, uscirne con stili di vita, stili di consumo differenti, oppure invece puntando su nuove tecnologie più amiche dell'ambiente. E l'esordio dell'articolo è la frase di Sant'Agostino: Signore, dammi la castità, ma non ancora, non subito. Ecco, dice l'articolo dell'Economist, questo è un po' lo stato dell'arte della grande politica britannica in materia di sviluppo ambientale. In realtà ci sono molti proclami, ma finora poche spinte concrete, anche per le difficoltà appunto date dalla crisi economica. E infatti la crisi si vede molto bene in un bellissimo grafico che viene riportato su il mensile del Sole 24 Ore, che è in edicola da oggi. Un grafico riportato sulle due pagine del mensile si intitola Cara, ma ti ricordi quando spendevamo? Cioè, quando spendevamo? Spendevamo solo l'anno scorso. Una mappa abbastanza articolata, che non è semplice ovviamente da descrivere, mette a confronto quanto è stato speso in tutte le parti del mondo per alcune voci, tipo l'abbigliamento, l'high tech appunto, piuttosto che i televisori, e quanto invece si potrebbe ridurre questo tipo di spesa. Avverte Francesco Franchi: nel 2007 gli americani hanno speso 600 miliardi di dollari tra camicie, televisori e iPod. In Europa invece erano gli inglesi i più spendaccioni e gli italiani spiccavano per lo shopping dedicato all'abbigliamento. Scommettiamo, chiede Francesco Franchi, che le cifre di quest'anno saranno più basse? Beh, è una domanda che purtroppo rischia di suonare retorica. Ancora da Il, però, vi segnalo momenti, invece un aneddoto di storia dell'economia più positivo, più gradevole, nella rubrica intitolata Momenti di Gloria, quei giorni che ci cambiarono la vita, si celebra il 27 giugno del 67. Cos'è successo? Non è crollata la borsa quel giorno, per fortuna, invece a Londra venne inaugurato il primo sportello Bancomat. Non era, come si riferisce nell'articolo, come i bancomat che usiamo oggi, accettava dei gettoni di carta comprati in precedenza dalla banca che venivano poi trattenuti dall'apparecchio. L'inventore si chiama John Shepherd Barron e in realtà non brevettò la sua invenzione perché presentando richiesta di brevetto avrebbe dovuto rivelare il sistema di codifica. Quindi in questo modo le altre banche e altri paesi cominciarono a produrre versioni proprie di questo distributore. Il secondo distributore Bancomat venne installato dalla Westminster Bank la settimana seguente e questo poi abbinato agli sviluppi nel campo delle carte di credito e ad altro ha aperto la strada agli apparecchi di oggi. Alla fine degli anni 60 c'erano 781 distributori automatici di contanti, adesso si calcola che in tutto il pianeta ce ne siano oltre 1.700.000. Magazine 24. Bentornati al nostro appuntamento con i periodici. Restiamo un attimo su Il, sul mensile Sole 24 Ore che trovate in vendita insieme al quotidiano. La parola del mese, voi sapete che Il ha questa rubrica fissa, ogni mese viene individuata una parola chiave. La parola del mese questa volta è tornello. Di tornelli si è parlato molto, si è parlato perché si volevano estendere, no, dagli stadi ai dipendenti pubblici di vari settori. Ecco, riferisce la pagina di Il che tornello era un sistema per le bestie, questa è stata l'origine del tornello vero e proprio, e nelle affollate fiere del commercio dell'industria inglese era già usato nel 1888 per regolare l'accesso dei visitatori. Tra l'altro, tra le aziende che vendono tornelli in Italia, numerose ditte commercializzano anche quelli con sensori a lettura biometrica delle impronte digitali. E poi ci informa sempre Il, in America il tornello è noto anche come Rotogate. A Chicago e nelle altre città venne montato nelle stazioni della metropolitana che non sono presidiate dal personale. Il tornello è stato effettivamente una parola ricorrente nelle ultime settimane, lo sarà probabilmente a lungo alla ricerca di una capacità di maggiore efficienza, recupero di controllo, recupero di produttività, insomma dei settori più vari. Sul venerdì si parla pure di tornelli, si dice perché grazie ai tornelli aumentano le entrate un po' maliziosamente. È l'anno del tornello, secondo il venerdì, che non solo è il simbolo della crociata antifannulloni del ministro Renato Brunetta, ma è pure un concretissimo business. Il leader delle aziende produttrici di tornelli è la Gunnebo, multinazionale svedese, che dà lavoro a 7.000 persone e nell'ultimo anno è cresciuta del 5,6%. Tra l'altro il mercato del tornello è ampio, le esigenze sono molteplici, c'è il tornello antiladri, quello anti-hooligan, e la Saima, l'azienda italiana che ha un giro d'affari sui 30 milioni l'anno, ha studiato il PAS 107 in acciaio inox e cristallo, viene definito perfetto per un flusso elevato di persone in transito. Questo è la parola del mese, tornello, così come individuata dal mensile del Sole 24 Ore Il e poi anche chiosata dal venerdì di Repubblica. Torniamo un istante sulle questioni storiche. Abbiamo parlato del primo Bancomat, c'è una cosa molto interessante su Focus che ci racconta la storia delle crisi, in qualche modo la storia della finanza, in una lunga inchiesta intitolata Gli stregoni del denaro. Gli stregoni del denaro ci informa tra l'altro di quando è stata emessa la prima azione della storia. Vi posso dire che è del 16 giugno 1288, fu emessa da una società svedese-finlandese tuttora esistente, Stora Kopparberg. E tra l'altro, forse non tutti sanno che, verrebbe da dire, la prima legge anti-aggiotaggio della storia è italiana, la vararono nella Repubblica Serenissima di Venezia perché c'erano già dei titoli emessi dallo Stato nel 1300 e quindi nel 1351 il governo della cittadina promulgò la prima legge antiaggiotaggio proibendo la messa in circolazione di voci che avessero l'obiettivo di far scendere o salire i prezzi di questi titoli di Stato. Quindi, come vedete, le distorsioni nell'uso del denaro, diciamo, sono forse più antiche di quanto pensiamo. Abbiamo dato molta colpa di questa crisi finanziaria anche a un utilizzo massiccio dei computer, ma i problemi di un cattivo uso della finanza in realtà sono molto più antichi. Ritorniamo per un istante sulla tecnologia. Con una suggestione che ci viene da Newsweek, si parla di cloud internet. Ora, il termine non ha una traduzione italiana, però fa un po' parte di queste nuove modalità di dematerializzazione, di risparmio anche connesse all'utilizzo delle tecnologie. Cloud internet starebbe a indicare quell'utilizzo della rete per far risiedere altrove i propri dati. In un articolo di Daniel Lyons ci si spiega che questo fenomeno, appunto, di utilizzare la rete per immagazzinare qua e là, non conta neanche tanto dove fisicamente, ma solo ricordarsi dove, in quale punto si sono messi i dati, ecco, è un fenomeno in crescita e di probabilmente portata molto interessante anche dal punto di vista economico. Perché? Perché, spiega Lyons, muovere alla nuvola, il cloud internet appunto, il clouding computing come viene anche definito, significa che non c'è più la necessità di ricordarsi se avete lasciato il vostro foglio di lavoro sul personal computer di casa o su quello che invece tenete in ufficio. Non c'è più la necessità di copiare continuamente tutto, portarsi dei pendrive e trasferirsi da un supporto a un altro. Perché? Perché tutto quello che di cui si ha bisogno viene poi appunto mandato sulla rete e da lì può essere recuperato. Ci sono alcune aziende, informa sempre Lyons su Newsweek, che hanno cominciato a usare Amazon per far viaggiare nuove applicazioni al posto di installare queste applicazioni nei loro data center. In questo modo si conta di risparmiare diversi miliardi di dollari, da 16 quest'anno fino ad arrivare ai 42 nel 2012. Quindi un uso della tecnologia che consentirebbe anche di risparmiare denaro, di risparmiare spazio nei computer. Ma la tecnologia può venirci in soccorso anche per risparmiare l'ambiente e risparmiare denaro. Il tema è ricorrente un po' dovunque, devo dire, sui settimanali, sui mensili di questo periodo. Vi segnalo due cose, ma potete trovarne effettivamente molte altre. Focus di dicembre, una rassegna di prodotti ecologici, viaggiare senza petrolio, addirittura il titolo un po' enfatico dell'inchiesta, un po' ottimista se volete. Ci informa tra l'altro Focus che c'è già una ginocchiera che è capace di tradurre in elettricità il movimento articolare che si fa alla fine di ogni passo, l'hanno inventata i canadesi in questo caso, però poi nel mensile trovate anche tutta una serie di indicazioni di risparmio quotidiano, come appunto, ne abbiamo già parlato, l'idea di spegnere lo stand-by degli apparecchi, di passare al metano, di utilizzare l'energia fotovoltaica. L'energia è un po' il problema sempre ricorrente, il risparmio di energia in tutti questi prodotti. Anche Donna Moderna ha un catalogo di prodotti ecologici, tra cui un telefono, un cellulare verde completamente ecocompatibile, usa materiali derivati dal mais che quando vengono poi buttati via si dissolvono in acqua. E tra l'altro la confezione in cui è venduto è pure di carta riciclata non plastificata, quindi un'attenzione complessiva al risparmio e all'ambiente. I prodotti ecologici sembrano diventare quindi per questo periodo un po' la tendenza dominante. Bene, con questo consiglio, se volete anche un po' per il Natale che si avvicina, quindi forse saremo tutti più attenti a acquistare prodotti ecologici, chi lo sa, chi può dirlo, se non sia anche una strategia di marketing neanche troppo velata per promuovere prodotti più high tech, magari venduti invece facendo leva sulla loro capacità di verde. Con questo consiglio, dicevo, si conclude la nostra rubrica per questa settimana. Io ringrazio Peter Bescapè e Laura Marchesi per l'assistenza al programma e vi do appuntamento a sabato prossimo.